due parole le sono doverose da dire perché abbiamo pensato come VAG e con le altre realtà che insomma condividono anche questo spazio, questi due giorni, questo festival. Molti e molti in questi ultimi tempi, svegliandoci da una sorta di torpore, si stanno chiedendo come è stato possibile trovarci in un paese dove comportamenti e linguaggi sono tracimati inesorabilmente, contribuendo a creare le condizioni favorevoli alla crescita di nuovi fascisti. Un anno e mezzo fa gli spazi di VAC furono attraversati e riempiti da sulla testa, Festival delle Letterature Antifasciste, realizzato con l'obiettivo di parlare di passato e presente, di nazionalismi e populismi, di cultura e di iniziativa antifascista. Così scrivevamo allora e nel tempo che è trascorso quell'urgenza è lievitata inesorabilmente. L'avvento del governo Movimento 5 Stelle e Lega non ha fatto altro che consolidare un pericolo che mai era davvero svanito, certo, ma che negli ultimi tempi ha ripreso vigore e terreno, contando sulle paure di sempre, le insicurezze sociali dilaganti e interessate continuità istituzionali, rinverdendo una pratica su cui l'estrema destra ha sempre puntato e che oggi, tra spinta social alle fake news e media permeabili, gode di particolare fortuna, imporre falsi problemi e soprattutto false soluzioni. Questo mentre di decreto in decreto l'Italia si trasforma ogni giorno di più in una caserma in cui alle lotte sociali si risponde a colpi di codice penale. Questa premessa è indispensabile per comprendere i ragionamenti che ci hanno accompagnato nell'organizzare questi due giorni e la scelta di superare, ma non per questo ritenerla assodata, la fase della conoscenza dei fenomeni in atto e condividere le molteplici pratiche di resistenza, contrapposizione e liberazione che in questi tempi sono stati e sono almeno boccate di ossigeno. Nel documento Percorsi di antifascismo, che è disponibile e che secondo me è anche giusto condividerlo, anche perché noi speriamo dopo che da questi due giorni, oltre ad ascoltare le persone che hanno accettato l'invito a partecipare a questi due giorni, possa anche nascere una sorta di scambio anche di quello che accade e magari non trova spazio o viene sottovalutato nella nostra quotidianità. Dicevo, nel documento Percorsi di antifascismo, L'ora della dignità rischiosa, che introduce e accompagna il festival, si potranno individuare con una prospettiva più articolata i percorsi di antifascismo, quelli che esistono, quelli che bisogna immaginare e intraprendere. Un invito alla riflessione e al confronto in vista di due giorni di incontri, libri, musica, cibo, socialità, per ribadire che di fronte ai fascismi non c'è più tempo per girarsi dall'altra parte. Adesso iniziamo questi due giorni presentando il libro La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, di Wolf Bukowski, e anche con l'aiuto e il contributo di Maurizio Bergamaschi dell'Unibo. È edizione Allegra, uscita intorno a maggio. È una decisa opportunità questa di presentare questo libro, che ci permette di rappresentare come un libro è una pratica concreta e reale di antifascismo e di liberazione. Il libro disegna, attraverso un'accurata ricerca e con un linguaggio divulgativo chiaro e comprensibile, che è un elemento ulteriore di pregio di questo libro, su questi temi, sulle teorie criminologiche che sono state alla base della sicurezza, delle città sicure, eccetera eccetera. Esistono chiaramente studi accademici molto complessi e completi, che però rimangono in un circuito limitato. È difficile come dire, proporli come riflessione alle ci metto io, a noi persone comuni, a dipanare una matassa che è stata costruita nel tempo e che dopo avrà, ci darà l'opportunità di ripercorrerla. L'escalation di una terminologia che ha contribuito, infiltrandoci nelle nostre vite quotidiane, a stravolgere i linguaggi, i comportamenti, le dinamiche del potere, i diritti e le priorità del benessere. Parole come tolleranza zero, sicurezza, decoro, percezione, comportamenti, ordinanze, decreti, mure, panchine, clandestini, paure, lavavetri, senza fissa dimora, vupunfra, piazze, comitati, legalità, hanno invaso le nostre vite e contemporaneamente hanno rappresentato le fortune elettorali di tutti. Hanno permesso, questo sì, di distogliere l'attenzione sullo sgretolamento di quei diritti che nel tempo erano stati conquistati. Hanno ammorbato la cosiddetta opinione pubblica al punto che tutto ciò che rischia di essere contro noi stessi, contro le nostre libertà, paradossalmente in alcuni casi siamo noi stessi ad invocarli, siamo noi a richiederli. Pretendere diritti saranno oggetto di repressione e di intimidazione continua. Le politiche di sicurezza hanno permesso sotto banco di cancellare il welfare e ora impediscono qualsiasi forma di dissenso e conflitto. La partita l'apriamo se si riesce a distruggere questa narrazione tossica e sostenere tutte le pratiche di liberazione. La partita la riapriamo se prestiamo più attenzione a tutti quei provvedimenti apparentemente percepiti come di buon senso. E qui io uso questa terminologia molto, questo plurale molto generico, perché anche se vi capita, se ci è capitato a noi di dover parlare con delle persone in spazi non definiti e non caratterizzati come questo, c'è la disponibilità addirittura ad invocarli, molti di questi provvedimenti che viaggiano con atti amministrativi sotterranei che sono e che non danno la possibilità di comprendere quello che si portano dietro come anche esperimento per contrastare e per imporre delle norme che dopo vengono ad ampliarsi e a come dire costringere ancora di più gli spazi di libertà, gli spazi di conflitto che noi ci viviamo. Se andiamo con la memoria un pochettino lontano, quando è nata tutta la questione per esempio dei DASPO agli ultra, l'opinione pubblica, tranne chi ha fatto un ragionamento e chi intravedeva quella che era la pericolosità di questo provvedimento liberticida, faceva fatica a interessarsi di un provvedimento del genere. Nell'opinione pubblica ha avuto sicuramente un appoggio non dico quasi totale, ma poco ci mancava, cioè degli ultra di Roma e Lazio che si prendono a cazzotti durante una partita, la maggior parte delle persone non gliene fregava nulla. Però quello è stato uno strumento subdolo, molto sottile per mettere un provvedimento liberticida che dopo piano piano è stato esteso a quelle che di volta in volta e molto probabilmente lo sarà ripreso di volta in volta a quelle che sono le emergenze che vengono, tra virgolette, le emergenze che vengono costruite o narrate a secondo dei tempi che corrono. Per questo dico la partita la riapriamo se prestiamo più attenzione a tutti quei provvedimenti apparentemente percepiti come di buon senso e addirittura invocati, che in questi anni hanno contribuito ad aprire delle vere e proprie voragini che stanno ingoiando i nostri diritti e le nostre libertà. Io dopo magari se ci sarà l'occasione un pochettino dialogheremo più nello specifico, passerei la parola a Gonzo o a Maurizio per entrare più nel merito della produzione di questo libro. Innanzitutto grazie per l'invito. Ma allora io inizierei enunciando, diciamo così, innanzitutto una buona ragione per leggere questo libro, nel senso che in questo libro, come peraltro poi nei lavori precedenti di Wolf, e penso anche questo in modo particolare, Wolf intreccia piani diversi, cioè si muove dal fatto di cronaca al dibattito scientifico, criminologico in particolare, al dibattito politico. Ecco, riesce a tenere insieme tutti questi diversi piani e rendendo comunque, come diceva poi l'introduzione Antonello, rendendo comunque estremamente leggibile il libro, e questo sicuramente io credo che sia una buona ragione per leggerlo, e soprattutto perché, come dire, riesce a tenere insieme temi, ambiti di discorso che non sempre sono immediatamente collegati gli uni con gli altri. Libri sul decoro ce ne sono diversi, anche diciamo così nella letteratura italiana ne sono usciti più di uno, alcuni anche diciamo di non impegnativa lettura, ma ecco, io credo che il libro di Wolf rispetto ad esempio al libro di Tamara Peach contro il decoro, o il libro della Pisanello in nome del decoro, come dire, introduce una variabile che in altri lavori critici non si riscontra, cioè Wolf introduce una variabile che io ritengo essere chiave nella lettura del tema del decoro, come il tema del decoro si è imposto e come questo tema ci ha, come dice a un certo punto Wolf, proprio nelle primissime pagine, cioè ci ha sprofondato in un abisso. La variabile, dicevo, che Wolf introduce è quella della classe. Cioè Wolf già nelle primissime pagine ci dice che tutto questo discorso sul decoro non poteva funzionare se in modo preliminare non si cancellava la riconoscibilità delle classi sociali. Ecco, io credo che questo sia il punto di forza e il punto di vera innovazione teorica del libro di Wolf. E poi nelle pagine che seguono questo riferimento alla classe e non genericamente ai soggetti indesiderabili, non genericamente ai soggetti marginali, non genericamente agli indecorosi, ma un riferimento puntuale di classe viene continuamente riportato nel racconto che Wolf ci propone. E credo che questo sia una chiave di lettura che può essere sicuramente utile nel dibattito attuale intorno a questo tema. Perché ad esempio quello che intravedo come come insidia in tanti discorsi critici sul decoro sia semplicemente un rovesciamento di prospettiva, cioè a fronte di discorsi che continuamente evocano il decoro, noi ci collochiamo dalla parte degli indecorosi. Ecco, credo che questo semplice rovesciamento di prospettiva non ci possa aiutare. Questo semplice rovesciamento di prospettiva ci porta dentro, ci porta in un buco nero dal mio punto di vista, ci porta in un buco nero che Wolf mi sembra riesca a evitare, ovvero l'impossibilità di uscire da quel buco nero. Cioè, ci porta dentro a quello che Mark Fisher chiama il realismo capitalista, cioè l'impossibilità di pensare a un qualcosa di diverso rispetto all'esistente. Ecco, io credo che il tema del decoro, oltre a, diciamo, produrre i suoi effetti immediati su soggetti ben definiti, abbia anche questo secondo livello di produzione, cioè una funzione discorsiva dalla quale non si possa uscire. Ed effettivamente, dal mio punto di vista, non se ne esce se non si assume un punto di vista di parte, se non si assume un punto di vista che qui viene nominato come di classe. A qualcuno forse questo tema può non piacere, questo termine, ma comunque cogliere un aspetto, cioè che non è, come dire, non sono settori semplicemente marginali, del tutto marginali della popolazione, che dalle retoriche del coro, della sicurezza e quant'altro vengono colpiti, ma vengono colpiti settori di popolazione ben più ampi rispetto a quelli che solitamente vengono nominati, cioè quindi senza dimora, prostitute o altri soggetti, tra virgolette, appartenenti all'area della devianza. Ecco, a me sembra che tutto questo, tutti questi discorsi che in questi anni si sono affermati, e Walt da questo punto di vista fa un'operazione io credo molto importante, cioè ricostruisce tutto il dibattito, in particolare statunitense, a partire già dagli anni 80-90, quello che poi porterà alla teoria delle finestre rotte, ma che porterà poi anche dei cambiamenti molto più, come dire, profondi, ad esempio sulla ridefinizione dei sistemi di welfare, perché poi il tema del decoro, quando esce dalle maglie strette diciamo così, del piano dell'ordine pubblico, questo si travasa poi anche su altri piani, come ad esempio le politiche di welfare che ci dicono che ci sono soggetti meritevoli di assistenza e ci sono soggetti non meritevoli di assistenza. Soggetti non meritevoli di assistenza perché magari non assecondano esattamente alcune norme che gli vengono imposte. Banalmente, il recente reddito di cittadinanza sancisce normativamente uno spartiacque tra meritevoli e non meritevoli, cioè coloro che accettano un lavoro magari a 500, 600, 700 euro sono meritevoli di pigliarsi la differenza rispetto al reddito di cittadinanza. Chi non è disponibile diventa soggetto non meritevole e quindi non si piglia assolutamente nulla. Quindi quello che a me diciamo di questo libro ha particolarmente colpito positivamente è questa capacità di uscire da un ambito molto ristretto e evidenziare come questo tema travalica e attraversa diversi piani del corpo sociale. Poi al contempo, per rimanere un po' sul tema del decoro, evidentemente questo va anche a ridisegnare, diciamo così, ciò che è ammesso e ciò che non è ammesso. A un certo punto Wolf lo dice in un modo molto, riprendendo un giurista, dice: il decoro come possibile trade union tra l'ordinamento giuridico dello Stato e il codice della buona educazione. Ecco, perché ci sono dei comportamenti che probabilmente non appartengono esattamente alla buona educazione. Cioè, ad esempio, fare pipì per strada, possiamo dire che non è esattamente un comportamento che esiste, cioè che rientra nella buona educazione. Pipì in strada non si dovrebbe fare, poi quando scappa si fa, però, come dire, a me viene da dire, non si dovrebbe fare. Ma qual è il problema? Che questo atto, cioè fare la pipì per strada, diventa un atto oggetto di sanzione. Leggevo proprio, penso che la notizia sia, come dire, sfuggita di più, a me è capitato di leggerlo del tutto casualmente, che avantieri qui a Bologna, un ragazzo francese si è beccato una multa di 5.000 euro per avere alle 2 del mattino fatto la pipì in una via del centro. Poi se questo paga immediatamente, la sanzione viene ridotta a 3.300 euro, che comunque non è esattamente una sanzione. Qualche anno fa un docente che mi sembra di filosofia fu beccato e addirittura mise in discussione la sua credibilità di docente di filosofia in un liceo. Ecco, quindi cioè, è chiaro che ad esempio fare pipì sarebbe bene evitarlo, io credo, però se scappa e comunque se succede non mi sembra, come dire, una cosa molto grave. Qua invece esattamente attraverso questo dispositivo del decoro diventa oggetto di sanzione, di sanzione amministrativa rispetto alla quale peraltro nulla puoi fare, cioè nulla puoi fare se non pagare banalmente. Ecco, quindi da questo punto di vista io credo che anche da questo punto di vista la focalizzazione che Wolf si propone su questo tema del decoro sia estremamente utile. Poi ci sono altri, come dire, passaggi del testo che io ho trovato, come dire, particolarmente stimolanti, ma non perché, come dire, queste cose non ne fossi a conoscenza. Gran parte delle cose che Wolf scrive io ne sapevo tutte o quasi, magari mi mancava qualche fatto di cronaca, magari mi mancava qualche riferimento bibliografico, ma gran parte delle cose che Wolf dice io gran parte le conoscevo. Ma la cosa però bella di questo libro è che le mette tutte insieme, cosa che non sempre ritroviamo. Ecco, poi c'era un ulteriore punto che mi interessava riprendere, perché un'ulteriore insidia che questo dispositivo del decoro, quando viene ripreso in questi ambiti, nell'ambito in cui noi oggi siamo, può generare, cioè qualsivoglia diciamo azione è in qualche modo già inscritta, già detta. E cerco di spiegarmi. A un certo punto, nelle ultime pagine del libro, Wolf riprende il tema della deistituzionalizzazione, della deistituzionalizzazione degli anni 70, in particolare degli ospedali psichiatrici e di un'altra serie di istituzioni totali. Ecco, una lettura, io credo, banale, porta a dire che quella deistituzionalizzazione in realtà una deistituzionalizzazione a cui non è seguita una attivazione dei servizi sociali territoriali era già, come dire, una scelta di smantellamento del welfare, in quanto era un modo per risparmiare. Ecco, perché questa roba io non la trovo convincente? Non la trovo convincente perché depotenzia quel processo di deistituzionalizzazione che è stato un processo conflittuale. Ecco, il tema del decoro rischia in qualche modo di generare un effetto analogo, cioè che qualsivoglia azione di contrasto comunque si muove dentro a quella logica lì. Ecco, questo è, io credo, l'insidia di questo dispositivo, perché io credo che sia, come dire, evidente che, secondo, come dire, tra di noi, come dire, sia abbastanza scontato dire che il tema del decoro sta producendo dei disastri enormi, che sta ridefinendo le vite delle persone, sta ridefinendo le città. E poi su questo magari dico due parole dopo, ma ancora più importante è quali discorsi mettere in campo contro il decoro. E questo a me sembra il tema più rilevante, almeno in questi ambiti. Ecco, ultima cosa, ecco, dicevo, perché questo tema del decoro, qua torno, vado su campi che mi sono un po' più familiari, cioè, questo tema del decoro va a ridisegnare la città, e questo è un altro, oltre che le vite delle persone, che già non è secondario, ma va a ridefinire anche pezzi di città, le cosiddette ordinanze, attraverso, che è lo strumento poi amministrativo mediante il quale poi il decoro prende forma, attraverso queste ordinanze il profilo di zone della città si va a ridefinire, ma anche qui io credo che dobbiamo essere attenti, non si va a ridefinire in modo omogeneo. In alcune zone sono interdette alcune cose, in altre zone ne sono interdette delle altre, cioè non c'è una ordinanza che riguarda l'intero territorio comunale, ma ci sono tante ordinanze puntuali, e rispetto a ogni zona su cui l'ordinanza interviene, interdice determinati comportamenti, determinate azioni, determinate situazioni. Quindi sono ordinanze fortemente situate, fortemente attente a quelle che sono le specificità di un territorio rispetto a un altro territorio. Ordinanze situate spazialmente ma anche temporalmente, per cui dal mese di maggio al mese di settembre, ottobre alcune cose non si possono fare, ma poi dal mese di novembre al maggio successivo magari le stesse cose si possono fare. Ecco, questo è una ridefinizione di una città, ma una ridefinizione di una città che ci consegna una città che non è un tutto omogeneo, ma è al suo interno articolato, e anche qui dobbiamo essere in grado, io credo, di cogliere le articolazioni, perché troppo spesso io credo che proponiamo dei discorsi che siano troppo generici o troppo generali e che non siano in grado di cogliere lo specifico che invece lì si sta producendo. Credo che invece è su quello specifico che dobbiamo essere attenti e ovviamente poi rispondere adeguatamente. Ma ecco, queste sono alcune considerazioni. Ecco, l'ultima cosa che devo dire, io sono un lettore di Wolf, dai primissimi racconti alle primissime cose, ecco, questo mi sembra essere tra i tanti lavori di Wolf, non so se a lui questa cosa torna, ma mi sembra essere il libro più militante di Wolf, non lo so se è una mia suggestione o semplicemente perché ultimamente ci frequentiamo molto di più, ma e forse anche, e questo lo devo ricordare, la dedica finale, come dire, da questo punto di vista io credo che in qualche modo con questa dedica finale Wolf si mostra pubblicamente, e per questo che io dico anche che è un libro molto più militante rispetto agli altri, che erano comunque libri di denuncia, ma qui mi sembra che non ci sia solo la denuncia, che invece definiva molto la posso leggere o la leggi? No, io non ce la faccio leggere, perché questo... Allora, vabbè, la leggo io perché comunque è una cosa a cui tengo. Ci sono alcuni ringraziamenti che non vi sto a leggere. Poi, mentre la primavera precoce di questo 2019 spalancava in anticipo di settimane i boccioli dei peli ornamentali, la perdita incolmabile di Rocco ha riportato il gelo tra le strade della Bolognina e il dolore nei cuori di chi lo amava e aveva condiviso pezzi più o meno lunghi di strada con lui. Nelle assemblee di XM24, nelle discussioni, in ognuno dei momenti di una generosa militanza, Rocco non perdeva occasione di ricordare come fosse nella condizione degli ultimi che andava letta la tragedia del presente. E spendeva senza risparmio energie, riflessioni, passioni, parole, lotte per e soprattutto con chi non ha voce, chi non ha ancora trovato voce e chi neppure sa di avere una voce per farsi sentire. lacrima tra le lacrime di un lungo commiato collettivo, ricordo tra i ricordi di centinaia di sorelle e fratelli travolti dalla sua vitalità, sconvolti dalla sua scomparsa, orgogliosi di essere suoi compagni, questo libro gli è dedicato. Grazie, grazie molto. Ok, grazie dell'introduzione. Siamo passati appunto alla parte più, per me più dolorosa del libro, che è stata questa che ho voluto mettere apposta alla fine, perché non volevo che fosse semplicemente un saluto apposta all'inizio, ma ci tenevo che fosse un pezzo conclusivo della riflessione. Non so se è il libro più militante, mi farebbe piacere, l'approccio sicuramente è quello. È un libro molto faticoso per me, da quello che mi dicono, non altrettanto la lettura, però insomma c'è chi teorizza questa cosa, che più è faticoso il libro da scrivere, più è agile la lettura, comunque più è digeribile per il lettore, quindi forse qualcosa ha funzionato. Però il tema è anche molto faticoso per me, me ne sto rendendo conto nelle presentazioni, che sono state tante in questi due mesi, perché ha delle sfaccettature veramente infinite. Antonello e Maurizio ne hanno già elencate alcune, forse tutte, però insomma poi ognuna meriterebbe uno svolgimento enorme. C'è una sfaccettatura etica, per esempio, della, o meglio, sul riproporsi dello stato etico, no? Non c'è solo la pipì in strada, che ovviamente è una roba che è sempre stata sanzionata, ma che, essendo un reato penale con una piccola sanzione pecuniaria, andava in fondo alle carte dei tribunali e nessuno mai l'affrontava, no? E per cui andava sempre in prescrizione. Però ecco, c'è quella con questa sanzione amministrativa smisurata, tra l'altro appunto proprio perché appunto il tema è molto denso, ci infilo dentro qualche aneddoto perché mi rende un po' più facile affrontarlo. Interessante vedere come quando Renzi depenalizzò questo reato, che si chiama atti osceni in luogo pubblico, o comunque sono due reati, uno con contenuto sessuale, due reati gemelli, uno per atti con contenuto sessuale e uno che implica soltanto il fatto osceno, quindi pisciare o mostrarsi nudi. Li ha depenalizzati entrambi Renzi, e la destra, che non aveva capito nulla, la bestia non era ancora in funzione, quindi non aveva capito bene che cosa significasse questo, in Parlamento ha detto: ah, che cosa orribile, questi svergognati della sinistra, afflitti appunto da teorie del genere e da altre cose oscene, hanno pensato che addirittura si può pisciare dappertutto, che non sia più reato, e si può scopare dappertutto e non più reato. In realtà l'aveva vista molto più lunga Renzi, perché appunto prima era un reato che però necessitava di un passaggio in tribunale, è diventato un reato amministrativo semplicemente sanzionato da qualsiasi operatore di polizia, e quindi tutti i vecchi 5.000 euro di multa, scontabile 3.300 per fare pipì, e non puoi fare essenzialmente nulla perché i ricorsi in questi casi sono praticamente impossibili. E quindi c'è questo aspetto, e non è solo questo lo stato etico, è la Raggi che nel nuovo regolamento di polizia urbana ti dice, come una buona mamma, come si deve bere alle fontanelle, che non bisogna appoggiare le labbra al nasone, cioè la tipica fontanella romana. Il regolamento di polizia urbana contiene indicazione di come si deve bere. Questa è stata una richiesta esplicita della Presidente 5 Stelle della Commissione, che ha deliberato questo nuovo regolamento. Quindi siamo appunto oltre, no? Siamo la zia Raggi o la mamma Raggi ti dice come si deve, e papà Salvini ti annovera te tuoi 60 milioni di figli. Quindi siamo veramente a una sfumatura che ci avvicina molto a uno stato etico in senso pieno. Quindi c'è questo aspetto qui, c'è l'aspetto secondo me anche di come vivi le cose personalmente, no? Di una riscrittura della tua stessa esperienza personale. Questa è una cosa che io trovo affascinante, no? Nella capacità del potere e del discorso pubblico di riscrivere la tua esperienza personale. E torno agli esempi di prima: tutti hanno scopato in macchina, tutti hanno fatto pipì in strada, e però nessuno, no, a parte frange marginali, si è sconvolto o ha sollevato una voce contro questi provvedimenti assurdi, che sono da appunto 5.000 per la pipì e 10.000 per il sesso in macchina. Quindi questo cosa significa? Che evidentemente si è creata anche una frattura rispetto a quella che è la tua, cioè gente della mia età, per esempio, che come puoi pensare che, no, una serie di cose che tu hai vissuto benissimo, hai fatto benissimo, e parlo di queste, ma parlo anche, non so, del dormire in stazione, che è una cosa che tutti quelli che hanno fatto un Erasmus negli anni 90 hanno sempre fatto, e adesso è diventato qualcosa di impensabile. Quindi questa cosa genera anche una frattura, no? Nella tua esperienza personale, nel modo in cui la vivi e nel modo in cui la trasmetti magari ai figli o ad altre persone. C'è questo. C'è l'aspetto dell'estetizzazione della politica, che è un altro aspetto estremamente drammatico, perché insomma, noi parliamo di decoro, che è comunque un valore estetico, è un valore che ha a che fare e aveva a che fare fino agli interventi legislativi degli anni 10 essenzialmente, perché a livello di legge siamo appunto al Minniti, che lo fa in maniera organica per primo. Fino ad allora si parlava di il decoro, era il decoro architettonico, quindi era lo stato dell'intonaco o degli infissi di una casa essenzialmente, quindi qualcosa di molto diverso. Quindi c'è questo aspetto qui, ce ne sono appunto un'infinità di altri. Sicuramente continuo a pensare appunto che si tratti e che ci si... c'è l'aspetto urbanistico, che è quello che accennava Maurizio, ed è assolutamente fondamentale, perché poi è anche un motore economico di tutto questo processo. Sappiamo bene, la vicenda di XM per esempio dimostra come il discorso di XM e della Bologna in generale, di come il discorso del degrado preceda degrado, militarizzazione eccetera, sia l'accompagnamento indispensabile di un processo di trasformazione urbanistica nel senso di una gentrificazione, che poi sarà riuscita o non sarà riuscita, però insomma quella è la direzione: valorizzazione degli immobili, nuovi operatori commerciali eccetera eccetera, finanziari che investono nel quartiere e così via. C'è tutto questo, e poi c'è l'elemento che appunto secondo me è centrale, che è quello della classe. Decoro e sicurezza, ecco, io cerco poi, come dire, il titolo è dedicato al decoro, alla fine, perché sembrava pesante cercare di tenere tutto in un titolo, e perché il decoro forse è la cosa che in questo momento è davvero la punta dell'iceberg più visibile, però il discorso è sempre decoro e sicurezza. Questo lo dimostrano sia il decreto Minniti che i successivi decreti Salvini, cioè le due, il richiamo alla sicurezza, il decoro viene garantito dalla sicurezza, in una sorta di cortocircuito in cui non c'è più alcuna differenza tra ciò che crea allarme sociale, o che comunque quella che è una minaccia reale, l'incolumità fisica, e la scritta sul muro, per esempio. Questa è una cosa molto importante, molto significativa, no? E quindi questo binomio decoro-sicurezza è qualcosa che ha profondamente a vedere con la riscrittura e con la, diciamo, la contesa sulla classe media. Contesa sulla classe media che, al di là appunto, c'è tutto un pregresso statunitense, che però qui da noi si gioca negli anni 90, si gioca nel momento in cui appunto c'è un pezzo importante, grosso, della popolazione di questo paese che si trova minacciata dalle trasformazioni sociali, dalle trasformazioni economiche, cioè l'arrivo della precarietà sul lavoro, soprattutto in maniera anche più precoce la precarietà sull'abitare, quindi la fine dell'epoca canone, che è del 92-93, e che quindi getta tutti quelli che stavano in affitto sul mercato dell'immobile, capito? Quindi queste sono cose che creano una grande insicurezza e la creano tra i lavoratori e nella cosiddetta, abbastanza indefinibile, classe media, e la contesa, diciamo, su questa classe è quella che muove i partiti principali, cioè muove la destra, che ovviamente ha già fatto la scelta di campo, e muove quello che allora è il PDS, che la fa, la costruisce dopo la fine del comunismo, e la costruisce appunto facendo una scelta molto decisa, che è quella appunto di non solo abbandonare politicamente, o come dire, non allontanarsi politicamente da una difesa della classe lavoratrice, che è una roba che ha radici più lontane, questo divorzio, però l'abbandona anche una lettura della società in termini anche solo vagamente di classe. Io individuo, ovviamente sempre in maniera blanda, però individuo nel 90 una sorta di spartiacque, che non vuol dire che il PC prima del 90 fosse un partito radicalmente di sinistra, però vuol dire che evidentemente in maniera spuria nelle sue classi dirigenti e forse soprattutto in ciò che le classi dirigenti pensavano del proprio elettorato esiste ancora in qualche modo una lettura di classe. Quando ci sono una serie di episodi per esempio di razzismo e violenza tra l'89 e il 90, oltre alle uccisioni, la più nota è quella di Jerry Maslow, ce ne sono state diverse di braccianti in quegli anni, un pogrom, una sorta di quasi pogrom tentato a Firenze nel carnevale del 90 contro venditori ambulanti nordafricani. Ecco, di fronte a fatti di questo tipo la sinistra istituzionale, il PC o quello che si chiamava, la cosa, come si chiamava in quel momento, nonostante il suo moderatismo, ha ancora la capacità di dare una lieve lettura di classe e riconosce quindi in questi soggetti degli appartenenti alle classi che storicamente in qualche modo gli interessava difendere. Di lì a poco, no? Per esempio a Firenze lascia la giunta guidata da un socialista, perché questo socialista è troppo morbido nel condannare il pogrom a danno dei venditori ambulanti nordafricani. Pensate adesso, no? Un trentennio dopo, sarebbe impensabile, perché la prima cosa che non solo un dirigente ma anche un militante del PD ti dice è: ma quelli vendono merce contraffatta. Cioè non si vede più minimamente l'appartenenza alla classe lavoratrice e alla sua parte più sfigata di questi soggetti, ma si vede la cosa legalitaria che ama, è merce contraffatta, è impensabile una solidarietà in questo momento. Ecco, da lì in poi è un momento, da lì in poi è la corsa a leggere una società senza più classi è velocissima, e la sensazione che in quell'impasto in cui emerge questa idea di sicurezza, emerge in maniera molto forte in Emilio Romagna, magari ne parliamo dopo se ci va, emerge nel discorso del PDS è rapidissimo. Cioè nel 94-95 già non parliamo mai di classe, parliamo e comincia ad assumere con un'enfasi sempre maggiore il ruolo, questa idea di città come comunità, di città organicista. Cioè nei discorsi di Bersani del 94, che era presidente della regione Emilia Romagna, c'è un'idea di città che è già una città organicista, pienamente organicista, in cui appunto non c'è spazio per il conflitto e la comunità barra città è quella che deve essere difesa dal mondo esterno, e l'esterno è l'indecoroso, è lo straniero, perché comincia da allora a costruirsi la retorica contro i migranti, ed è appunto quello che minaccia questa convivenza pacificata di un mondo, di un'Italia, di un paese che deve affrontare le grandi sfide della neoliberalizzazione, senza opporsi, anzi accompagnandole così come si fa nella costruzione del modello europeo, che è quello che avviene in quei momenti. Ecco, io credo che lì è lì che la sicurezza viene usata come tutela di questa comunità organica, e la città diventa quella che viviamo oggi. C'è una città in cui non importa più, o meglio, non deve importare più se tu vieni dalla periferia, se vuoi farti la serata in città. Tutto questo non ha più nessuna leggibilità nella politica istituzionale. Quello che importa è il disciplinamento dei soggetti che la attraversano. Ovviamente chi è benestante non ha bisogno di essere disciplinato per arrivare nei posti giusti, gli altri invece hanno fortemente bisogno di esserlo. Il decoro in questa roba c'entra moltissimo, appunto come diceva Maurizio sulle ordinanze. Se ci pensiamo, molte di queste ordinanze, di cui noi magari spesso vediamo emergere il soggetto studente fuori sede che viene colpito dal divieto di bersi la birra in Piazza Verdi, però possiamo anche pensarla, ed è così, come colpire il ragazzo, il giovane di periferia che vuole farsi la serata in città ma non può andare tutte le volte al parco. E quindi quello deve essere disciplinato, quello deve capire che il centro della città non è più roba sua. E se vogliamo, essendo un po' su una cosa di attualità che immagino che a tanti, di attualità proprio strettissima oggi, che a tanti ha fatto girare le palle, il cittadino del centro di una via tra le più costose e raffinate di Bologna, che fa la morale colonialistica su cosa si deve scrivere o no sui muri sotto casa sua, perché lui è un bravo e democratico cittadino di sinistra, e spiega a qualcuno che forse viene dalla propria, ci siamo capiti. E su questo ripasso il microfono a qualcuno, perché insomma è finito il tempo. Ma se qualcuno vuole vuole, perché io invece, se non c'è nessuno, faccio una domanda, perché allora il libro inizia dalla teorie che criminologiche che nascono negli Stati Uniti, la tolleranza zero che viene assunta specialmente dopo dal sindaco Giuliani a New York, e quello permette di, come dire, camuffare quello che è quel residuo di welfare a New York che viene cancellato. E il fatto che venga negli Stati Uniti stupisce relativamente, perché comunque le teorie del welfare negli Stati Uniti sono sempre state comunque viste come una concessione un po' diversa, diciamo, da quello che è stato, da quello che si è realizzato nell'Europa, nell'Europa, almeno nella parte occidentale dell'Europa. E dopo questa teoria comincia a migrare verso l'Europa. E non casualmente il primo paese che incrocia è l'Inghilterra, l'Inghilterra della Thatcher, l'Inghilterra che confligge con e annulla il conflitto che era stato realizzato con i minatori e con anche le iniziative dei prigionieri politici irlandesi. C'è questo scontro, queste due contrapposizioni, tanto da farne un personaggio quasi desiderato, cioè, ultimamente penso che sia stato fatto anche un film sulla Thatcher, cioè, marcando questa forza di questo personaggio, quasi a sdoganare questo personalismo che dopo abbiamo visto nelle politiche, nelle campagne politiche di tutta l'Europa, specialmente dell'Europa occidentale. Però quello che ti volevo chiedere è che a un certo punto queste politiche securitarie, questa idea di modificare nelle persone l'idea che il proprio benessere, il proprio star bene non poteva essere più collegato a una dimensione di conflitto, a una difesa dei diritti, cioè diventa praticamente uno strumento per cancellare l'idea che i diritti che erano stati conquistati fino allora in Italia, ma nel resto dell'Europa, Germania, con diverse declinazioni del welfare, fossero, come dire, non più realizzabili attraverso il conflitto, e diventa quasi una panacea questa idea della sicurezza per soggettivizzare quello che è l'idea del bene, dello star bene, e quello di trovare nell'alchimia di alcune parole che di volta in volta si modificano, no? Perché in Italia la prima grande questione è l'Emilia Romagna, devo dire che è stata da questo punto di vista, come sempre, una protagonista iniziale su alcuni temi, no? I Vucumprà, la storia dei Vucumprà ha riguardato le ordinanze su questo, ha riguardato tutta la Riviera Romagnola in maniera organica dal punto di vista degli strumenti amministrativi che sono stati messi in campo. L'idea di trovare, come dire, una strada presentabile sull'idea della sicurezza in Emilia Romagna ha trovato un progetto che era Città Sicure, che cercava di tenere insieme questo concetto con l'idea della riqualificazione urbana. All'inizio c'è stato anche chi dal punto di vista anche intellettuale ha cercato di contrastare, per esempio, quello che era l'inizio della Lega su questo tema, appropriandoci di questi concetti e cercando di renderli compatibili con un'idea di sinistra, no? Cercando di togliere questo tema dalle mani, dall'egemonia. Dopo, oggi ci troviamo a leggere questa realtà con una battuta che si usa quotidianamente, che dopo alla fine la pancia delle persone, una volta che tu tracimi su questi temi, la pancia delle persone aspira ad avere l'originale e non la fotocopia, per usare una banalissima affermazione. Ecco, cioè, questa parte qua è molto dettagliata, era un po' quello che poneva come lettura Maurizio, quello della classe, della componente che praticamente piano piano disfa quella idea conquistarsi o di difendere i diritti e di aggrapparsi al capo espiatorio di turno, che sarebbe la causa del proprio disagio, della propria fragilità sociale, della propria inquietudine, della propria rabbia. Io per questo mi sono azzardato un pochettino a trovare una radice su quello che avviene oggi, anche nel modo di esprimersi, nel modo di manifestare senza nessun freno inibitorio, utilizzando parole sia a livello istituzionale sia nei luoghi comuni. Abbiamo visto, ci sono delle trasmissioni che si sono accorte ultimamente che quello che è avvenuto a Lampedusa è insopportabile, capito? Cioè, augurare lo stupro come elemento, cioè, c'è tutta una un concime che secondo me sarebbe errato non collegare anche a quelle forme estreme che noi classiche di come si manifestano i fascismi o le organizzazioni fasciste, ma che è un presupposto su cui tergiversare e non immettere degli anticorpi concreti, anche visibili, anche espliciti, può rappresentare veramente un grande pericolo anche nel trovare le forme per contrastarle. Il ragazzetto che a Torre Maura ha impattato contro quelli di Casa Pound è un comportamento che dovremmo cominciare ad avere un po' tutti quando si sentono delle affermazioni in dei posti. Non è quello chiaramente l'antidoto, sicuramente. L'atteggiamento dei Wuming su una questione come la Fiera del Libro di Torino percorsi non semplici e dovrebbero essere più diffusi. Sono stato molto disordinato nel manifestare il mio pensiero, ma penso tornare un attimo all'inizio della tua riflessione, quella su sulla sponda, diciamo l'altra sponda del decoro, e sul nesso diciamo sulla repressione politica e il decoro. Allora, da un lato, no, procede, si dice, dal 94 con Giuliani. In realtà anche i due sindaci precedenti di New York avevano preso provvedimenti che andavano già un po' in quella direzione. Quindi procede questa che si chiama tolleranza zero, che giornalisticamente è stata chiamata tolleranza zero e che quindi sappiamo cos'è: colpire qualunque tipo di illegalità con l'idea del tutto falsa, no? Falsificata da studi puntuali successivi, che colpendo qualsiasi tipo di illegalità, anche piccola, si riduca la criminalità significativa. È vero il contrario, secondo studi recenti. E dall'altra parte però, e questa è la parte della sicurezza, dall'altra parte però c'è la parte del decoro, che là si chiama quality of life, che è un percorso un po' più lungo, che inizia un po' prima, inizia già negli anni 80, ed è un percorso che, come banalizzando molto, è in una New York devastata. Noi adesso non ci rendiamo conto, vedendo la New York comunque che sì, ferita dall'11 settembre tutto, però ancora una macchina di accumulazione capitalistica straordinaria, non ci immaginiamo di quello che è stato nel 75, cioè una città che ha licenziato tutti, ha licenziato quote impressionanti dei dipendenti pubblici, insegnanti, Spazzini, personale della metropolitana, che infatti dopo diventa un disastro, poliziotti, ha ridotto persino i poliziotti dopo con la crisi del 75, e si è consegnata in mano alle banche. David Harvey parla del modello New York insieme al modello Cile di due anni prima, del 73, come di quello che poi sarà la diffusione del neoliberismo a livello internazionale, quindi proprio New York come modello, come laboratorio di studio. Quindi abbiamo questo tipo di New York, e in questa New York negli anni 80 un pezzo di classe media, di proprietari di immobili, comincia a organizzarsi per quello che verrà chiamata la quality of life. Anzi, in realtà anche lì la storia la faccio un po' nel libro, la storia dell'espressione, non mi ricordo se la faccio o se l'ho poi tagliata, però insomma è interessante. La storia dell'espressione quality of life viene rubata anche quella a quella che era l'istanza di sinistra, in qualche modo, che cioè la qualità dei cittadini. Prima la si usava, credo addirittura negli anni 50, per indicare la qualità, per esempio, a livello ambientale, no? La salubrità. A un certo punto, per esempio, Nixon deve dire che no, non preoccupatevi, abbiamo dato un sacco di incentivi alle industrie, ma questo non danneggerà la vostra quality of life, nel senso di qualità dell'acqua che bevete e dell'aria che respirate. Quindi è una parola che ha tutt'altro senso e che nel corso degli anni 80 viene ribaltata, viene presa in mano da questi che sono identici. Se avete voglia, è un articolo che è leggibile online. Ecco, è che è impressionante perché è un articolo del 92, mi pare, di quello che sarà poi lo speechwriter di Giuliani quando vince le elezioni. Ed è impressionante perché sembra che parli dei nostri comitati per il decoro, cioè sono esattamente quel tipo di istanze, comportamenti, raccogliere rifiuti, recintare i parchi, l'attenzione sui parchi è maniacale. Ed è interessante perché le dinamiche sono quelle, quindi recintare i parchi, cacciare fuori. E di nuovo il tema agitato in maniera ridicola, se non fosse drammatica per la importanza che assume, del contrasto alla cosiddetta violenza di chi si oppone, no? Per esempio ci sono questi dei comitati che recintano i parchi, che accusano quelli che sono gli antagonisti, diciamo, nel momento, e dicono: ma che cazzo fate, il parco di tutti, non permettetevi, anche perché lo fanno come gesto, come precedendo, no, l'intervento della municipalità, quindi è un gesto molto forte, e gli dice: siete dei violenti perché avete minacciato di usare le cesoie per tagliare le reti che noi invece vogliamo mettere, no? Quindi questo uso dell'accusa di violenza a chiunque si opponga con un metodo efficace a una trasformazione neoliberale dello spazio. E allora questa roba qui va di pari passo, e nell'ambito della costruzione ideologica che c'è attorno a questo concetto di quality of life uguale decoro, c'è tutto il mito di una New York precedente ai movimenti per i diritti civili. Cioè il nemico, nel senso anche di partecipazione politica delle minoranze, è un nemico già costruito, che viene costruito nel momento stesso in cui si impone. Quindi quello che poi noi ci ritroviamo, no, in fondo nei decreti di adesso, che sono un impasto straordinario, no, di persecuzione di soggetti indesiderabili, in particolare migranti, e però anche contrasto a qualunque forma di attività significativa, visibile, che non sia pura teatralizzazione di manifestazioni sindacali e politiche, no? Questo lo fa sia Minniti, no, con il contrasto soprattutto alle occupazioni abitative, che Salvini in maniera ancora più mirabolante col reato di blocco stradale, eccetera eccetera. Quindi questa roba qui, quindi legare il contrasto, e questo ci fa tornare alla radice di classe della cosa, quindi legare il contrasto alle forme di vita indecorose che non si possono disciplinare se non con la repressione, e al protagonismo politico di soggetti che invece devono essere tenuti ai margini, è una cosa che è fin dalle origini per entrare nel decoro, e che importiamo appunto questo sì straordinariamente dagli Stati Uniti, che però, ecco, hanno di più di noi la capacità di riconoscere immediatamente questi fenomeni, mentre noi arriviamo, come dire, molto lunghi rispetto al momento in cui si affermano qui da noi, a riconoscere il nesso, a riconoscere le linee di razzializzazione su cui agiscono, no? Cioè negli Stati Uniti ovviamente poi rimane forse una cosa di minoranze di movimento, accademiche eccetera, però comunque viene riconosciuto la dimensione razziale di un provvedimento. Qui da noi stiamo ancora a menarci sul fatto che gli ambulanti vendono merce contraffatta. No, ma intanto io volevo poi molto velocemente riprendere quel passaggio che faceva Antonello, che poi Wolf ha ripreso, cioè perché queste robe nascono negli Stati Uniti, cioè perché fondamentalmente, in parte già lo diceva Wolf, cioè negli Stati Uniti i processi di deindustrializzazione e di ristrutturazione assumono una forma di radicalità che per noi è inimmaginabile, cioè molte nostre città, penso ad esempio Torino, ha conosciuto un processo di deindustrializzazione tra gli anni 80-90, ma rispetto a quello che è successo a Detroit, Baltimora, sono robe assolutamente incomparabili. Cioè il deserto creato in quelle città è assolutamente non riscontrabile nelle città europee, anche perché con una differenza fondamentale, cioè tutto sommato in Europa persisteva un sistema di welfare che in qualche modo bloccava quelle spinte che comunque c'erano anche qui. Gli Stati Uniti, che non avevano un sistema di welfare se non del tutto residuale, quell'impatto della crisi della deindustrializzazione produce dei disastri sul piano sociale pazzeschi, con anche poi delle reazioni, cioè delle reazioni molto forti, quali ad esempio il blackout di New York del 77, dove in un paio di notti c'è una riappropriazione della ricchezza paurosa. Però ecco, cose che da noi assolutamente erano da un lato e dall'altro assolutamente impensabili, perché il contesto era completamente diverso, e quindi non casualmente quel tipo di dibattito e quel tipo di azione inizia prima negli Stati Uniti e poi solo successivamente arriva in Europa. Volevo dire una roba, questo lo accennava Antonello parlando degli anni 90, parlando dell'Emilia Romagna, ricordava l'esperienza del progetto Città Sicure. Un progetto di Città Sicure che era animato da una serie di figure intellettuali che almeno alcuni di noi sentivamo vicine. Cioè, Pavarini, cioè ad esempio, io penso che per me, ma per anche tanti altri che hanno la mia età, evidentemente, su un libro come Carcere e Società, cioè, sono formati, cioè è stato un libro costitutivo, cioè un libro di quelli che rimane nella formazione di tanti sessantenni o forse qualcosa in più di oggi. Ecco, però ecco, uno come Pavarini che sostiene quel progetto, lo anima, lo fa vivere, per poi registrare a distanza di 10-15 anni un totale fallimento. Cioè quell'idea lì, di poter gestire da sinistra quel piano di discorso lì, perché loro cosa proponevano? Proponevano una prevenzione situazionale accompagnata a una prevenzione sociale. Peccato che la prima abbia funzionato perfettamente, la seconda sia stata del tutto inefficace, del tutto su quel piano lì assolutamente non sono stati in grado di accompagnarla. Quindi anche quel pezzo lì di sinistra ha dovuto registrare, poi Pavarini poveretto non è riuscito a farci i conti perché è morto prima, ma cioè a registrare proprio di fatto sostanziale fallimento. Perché? Perché quella roba lì non è gestibile, cioè quel piano di discorso lì in una prospettiva di sinistra non tiene, perché se ti metti quello è un piano inclinato che non ti permette una presa, una possibilità di sganciarti e di direzionarlo altrove. Quel tentativo lì, sul quale la regione Emilia-Romagna fece un investimento enorme, perché pensava di contrastare quello che stava intervenendo. Pavarini sicuramente e il suo gruppo intravedeva quella che era la deriva che si stava affermando. Con grande ingenuità possiamo dire oggi, pensavano di riuscirla a bloccare con quella modalità lì. Non ci sono riusciti, aprendo poi la strada a un'adesione piena a quel tipo di discorso da parte di quelli che poi verranno dopo di loro. Però inizialmente c'è questo tentativo, ma un tentativo che assolutamente non funzionerà, non ha funzionato. Forse qualcosa di analogo accade anche col discorso che accennava prima Maurizio sulla deistituzionalizzazione. Allora c'è questo caso, qualcuno forse per più Agé se lo ricorda, non è neanche tanto Agé perché è una cosa del 1999. Ci tamburarono, per questo non l'ho messo nel libro, avrei voluto ma poi non si riesce, ci tamburarono per diversi mesi con queste immagini continuamente reiterate di questo uno, poi ne seguì un altro per emulazione, omicidi fatti da matti, insomma da malati psichiatrici conclamati, in metropolitana di New York, che spingevano giù persone. Il più noto fu quello di Kendra Webdale, che era è giovanissima, era però oltre a essere giovanissima la vittima perfetta, una ragazza bella, di buon giornalista appena arrivata a New York dalla provincia, di belle speranze eccetera eccetera. Su di lei si è costruita una narrativa pesantissima e punitiva rispetto a tutta la questione dei malati psichiatrici, che erano invece in qualche modo stati malamente deistituzionalizzati, perché poi appunto la deistituzionalizzazione funzionò col fatto che appunto uscivano dagli ospedali psichiatrici e poi non venivano accompagnati da nessuna parte, no? E si costruì una narrativa appunto che in qualche modo replicava gli approcci meritocratici, per cui il malato che accetta i trattamenti prescritti dai medici dopo essere uscito dall'ospedale psichiatrico merita di continuare a essere libero. E quindi perché appunto l'omicida di Kendra non stava prendendo i trattamenti nel momento in cui l'ha uccisa, affetto alla schizofrenia con comportamenti violenti, che non era sotto trattamento. Allora si è detto: non deve mai più succedere che uno non prenda trattamenti. Il malato deve dimostrarsi disciplinato e prendere i suoi trattamenti, altrimenti viene o carcerato, o incarcerato, o torna all'ospedale psichiatrico. Tutta questa narrativa funzionò alla grande e convinse tutti. C'è un piccolo dettaglio: che l'omicida di Kendra non aveva mai rifiutato i trattamenti, non gli erano stati dati. Lui si presentava agli sportelli e aveva chiesto nel giro di pochissimi mesi precedenti di essere di nuovo ospedalizzato, e ha detto: no, non sei abbastanza grave, vattene. Aveva chiesto un alloggio decente, no, chi sei tu, vattene. Aveva chiesto i trattamenti, non glieli avevano dati. Cioè aveva una storia di reiterati tentativi di accedere al servizio, ai servizi psichiatrici, ed era stato continuamente rimbalzato. Quindi questo è, come dire, il grande paradosso, ed è qualcosa di simile, no? Lo leggo nel fatto che appunto si discute di qualcosa di molto serio, cioè quindi anche della sicurezza, diciamo, anche in quel senso un po' deprivato, però anche della sicurezza nei confronti della criminalità, che comunque ha un suo senso, è una riflessione che va fatta, eccetera eccetera. Però poi, e si discute di come questa cosa debba sposarsi tra la prevenzione vera e propria del crimine e però la prevenzione sociale, cioè il welfare, però poi il welfare manca. Quindi si discute di cosa fare dei malati psichiatrici, però poi non gli si danno le cure possibili. E quindi ovviamente questi diventano bombe a orologeria che vanno in giro. Ecco, quindi questo è la cosa triste, no? Che mostra come la potenza ideologica anche di questo discorso. Io faccio un capitoletto che si chiama Non ci sono i soldi, perché è il motore invisibile di tutto ciò. Cioè anche tutto il discorso di Pavarini è estremamente razionale in molti suoi passaggi, a volte no, a volte aderisce a quelli che adesso usa chiamare, sdoganato chiamare buonsenso, cioè a pensieri un po' conservatori se non di destra. Però a parte questi momenti di caduta di stile, diciamo, è estremamente sensato. Però poi si blocca quando per esempio scrive le cose, la famosa relazione per Cofferati, che poi Cofferati non se ne fece nulla perché il rapporto si ruppe, scrive: sì, sarebbe bello fare del welfare per evitare queste cose, però non ci sono soldi. Cioè è un'assunzione su di sé, anche quindi appunto su una persona che poteva permettersi intellettualmente di dire: è inutile che ne parliamo se poi non mi dai le risorse per fare del welfare, che era la risposta giusta da dare. Invece c'è un'assunzione nel puro stile del realismo capitalista indicato da Max Fischer, del fatto che non ci sono i soldi per il welfare, che quei soldi non ci sono, e nonostante incredibilmente la ricchezza continua a viaggiare sempre più veloce sulle nostre teste, per quello che serve per la società non ci sono più.